Ecco dai che parti. Vai. Andiamo. Andiamo. Fa un programma strano, il cammino di Gigi D'Agostino. Allora non l'ho sentito, non era male. Massa come fomento, ciao. Piscia un po' sta musica. Stai a capire, frate. Ecco dai che parti. Mi fa sentire quel tu di prima? Oh, sappiamolo che mia madre si sveglia. Stop. Oh, ciao G, da paura, ho fatto una cosa, la sentita? Signore e signori, ecco a voi Gigi D'Agostino. Ecco qua, va. Voce del Verbo, te saluto e non te vedo. D'Agostino, una grande famiglia danzante.

me they dude I don't care like they dude I don't care me they dude I don't care this day dude I don't care this day dude I don't care like they dude I don't care me they dude I don't care this day don't care this day dude I don't care like they dude I don't care me they dude I don't care this day dude I don't care this day dude I don't care like they spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca.

La frequenza è codesta, codesta, è la musica pesta, pesta. La frequenza è codesta, codesta, è la musica pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta, pesta. Sì, sì. Alla faccia di chi ci vuole male. Dicono che non riesco a fare le rime. No, vabbè, dai. We'll be right back. giorno alle 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Rimani connesso. M2O. Mi è venuto il momento coccolone. Avviciniamoci tutti, dai. Abbracciamoci forte. We'll be right back.

di Gigi D'Agostino. Magari più bella.